La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:32 primi 15 secondi, siamo in diretta da Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast e vi dice subito di che cosa parliamo oggi, ricordandovi prima il numero di telefono per darci la vostra opinione, 800 24 00 24. Sapete invece per le opinioni su SMS 349 238 6666. Tentiamo di capire oggi, io dirò brevissimamente in 20 secondi come la penso, quello che sta avvenendo su uno dei versanti più delicati del progetto di legge che sembrava addirittura d'arrivo, quello sulle unioni civili. Ma più che del progetto di legge parliamo oggi delle reazioni che sembrano plurali, cioè sembrano diverse a dire la verità, che dall'interno della Chiesa Cattolica vengono nei confronti dell'avvicinarsi del momento decisivo in cui si capisce se in Parlamento passa o meno la legge sulle unioni civili, compresa la cosiddetta stepchild adoption, cioè la possibilità di riconoscere a chi ha figli da rapporti precedenti anche in caso di unioni civili con coppie omosessuali. Come sapete, chi è critico verso il progetto di legge considera questa fattispecie qualcosa che apre pericolosamente all'idea poi di consentire l'adozione delle coppie omosessuali, perché si dice tanto poi per via giudiziaria con sentenze si arriverà senza dubbio a quello, quindi non bisogna prevederlo. E la novità dell'ultima settimana è che all'interno del PD diversi, numerosi, più numerosi del previsto forse, parlamentari del PD di ispirazione o estrazione, cultura e parabola personale cattolica, hanno a propria volta radicalmente chiesto che la parte del progetto sulle unioni civili in cui si identificano i diritti a chi sottoscrive l'unione civile venga rivista, in quanto troppo viziata da analogie dei diritti concessi nel nostro ordinamento al matrimonio naturale, quello richiamato nella formula articolo 29 della Costituzione, quindi tra coniugi e quindi eterosessuali. Su questo, che ha agitato le acque politiche, perché all'interno del PD questa distinzione così netta non si era vista fino all'ultima settimana, e che quindi ha posto un'ipoteca seria sul fatto che o si cambia su parti fondamentali il provvedimento, oppure la maggioranza in quanto tale potrebbe non esserci, bisogna vedere poi come votano ovviamente i 5 Stelle, si è aggiunta la pressione di gerarchie cattoliche, o meglio, di fronte al fatto che il 30 gennaio prossimo si terrà, è convocato il terzo Family Day, cioè la manifestazione di coloro che soprattutto cattolici, ma tutti coloro insomma che si battono a difesa delle prerogative della famiglia ex articolo 29 e sono contrari quindi a riforme di legge che snaturino il concetto di famiglia naturale eterosessuale, di fronte a questo terzo Family Day non solo le sfumature, chiamiamole sfumature, le divergenze dentro il PD, ma soprattutto le prese di posizione delle gerarchie cattoliche fanno molto discutere. Si era detto fino a 2 settimane fa che in realtà la Chiesa italiana aveva un atteggiamento prevalente, quello di non entrare a gamba tesa nella questione per paura di avere una risposta più radicalizzata ancora, sia in Parlamento che da parte del Presidente del Consiglio, che era sembrato credere molto alla formula a cui era giunto il testo Cirinnà dopo lunghi mesi di esame parlamentare. Ieri il Monsignor Ruini, l'ex presidente della CEI, è durissimamente intervenuto con una intervista nella quale non ha usato mezzi termini, cioè ha detto chiaramente che lui si augura che quella legge non diventi una legge della Repubblica Italiana. Il sottoscritto ha detto che era molto sorpreso di questo tono usato dal Monsignor Ruini. Monsignor Ruini, per le responsabilità che ha avuto per molti anni ai vertici della Conferenza Episcopale Italiana, sa bene che nel nostro paese c'è una piena libertà di espressione, ci mancherebbe, nei confronti di tutti, laici, ecclesiastici, credenti di qualunque confessione. Cosa diversa e che riapre antiche ferite è quella che un appartenente alla gerarchia del suo prestigio, della sua levatura, riusi formule del tipo questa legge deve o non deve essere approvata nella Repubblica Italiana. Perché si torna a questione di ingerenza, ed è su questo che io chiedo la vostra opinione. Pensate che ci siano delle ingerenze improprie da parte della gerarchia cattolica, oppure siete convinti che, stante la rilevanza dei temi rispetto alla dottrina cattolica, siano giustificati questi toni così duri, cioè non deve essere approvata questa legge. Concludo l'introduzione dicendo che in realtà poi i media, soprattutto coloro che seguono e approfondiscono da anni le notizie, le evoluzioni all'interno della curia, nel mondo dell'ecclesiale italiano, con il nuovo Papa Francesco Bergoglio e così via, da parte loro c'è stata una proliferazione di articoli usciti sulla stampa nei quali si descrivono anime diverse all'interno dell'episcopato e delle gerarchie italiane. In particolare il presidente della CEI, Angelo Bagnasco, è stato anche lui duro, ha detto che il Parlamento in realtà sta compiendo una grande distrazione rispetto ai veri problemi del paese. Invece il segretario della CEI, quindi Nunzio Galantino, che è stata una scelta di questo Papa un po' che ha fatto molto discutere rispetto a una presidenza che prima di lui era molto potente della CEI negli anni, e invece questo segretario della CEI, che ha un po' la funzione, proprio o impropria che sia, di essere più vicino, pare, ai pensieri di Sua Santità, usa un tono, Monsignor Galantino, diverso, molto diverso, perché lui riconosce allo Stato il dovere di legiferare sulle unioni di tipo diverso che crescono nella società. A sua volta ha detto che trova delle ipocrisie nel disegno di legge Cirinnà, però il tono è molto diverso da quello che, come Ruini o Bagnasco, usano, tipo questa non deve diventare una legge. Allora, per capire meglio se si tratti di ingerenza, A, B, quanto profonde siano queste anime diverse all'interno dell'Episcopato italiano, C, se è possibile anche un po' come la pensa il Papa, visto che il Fatto Quotidiano per due giorni ha titolato sul fatto che, proprio per segnare una sua distanza rispetto a questo dibattito italiano, il Papa avrebbe cancellato udienze ai vertici della Conferenza Episcopale Italiana. Allora, abbiamo invitato con noi due ospiti. Il primo è Sandro Magister, grandissimo vaticanista dell'Espresso. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi, buonasera. E per il Cotè Politico, ma anche per parlare di queste prese di posizione della gerarchia cattolica italiana, Ivan Scalfarotto, sottosegretario per le riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento, che invece non ha mai fatto mistero di credere profondamente nel testo Cirinnà senza ulteriori cambiamenti. Grazie a Scalfarotto di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Magister, ci fa un po' capire, secondo lei, questa rappresentazione delle anime distinte rispetto all'unione civile della gerarchia italiana è fondata ed è veritiera secondo lei? È fondato pensare che il Papa è distaccato rispetto ai toni un po' oltransisti di alcuni rappresentanti dell'Episcopato rispetto ad altri? Lei come la vede? È sicuramente fondata quella descrizione che lei ha fatto poco fa. Va detto però che c'è un elemento che è appunto quello dell'incognita legata alla figura del Papa, che effettivamente potrebbe riservare delle sorprese e che fino all'ultimo non si è in grado di sciogliere con sicurezza. Mi spiego. Papa Bergoglio non è la prima volta che si trova alle prese con questioni del genere, perché già nel 2010, quando era arcivescovo a Buenos Aires, si trovò proprio con il Parlamento argentino che discuteva una legge per il matrimonio gay, proprio matrimonio, oltretutto, sì, sì, con diritto d'adozione e tutto quanto. E l'atteggiamento di Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, all'epoca fu abbastanza singolare, perché da un lato sconsigliò ai cattolici di fare delle marce, di fare delle veglie, addirittura rimandò letteralmente a casa i giovani cattolici organizzati che si erano attestati davanti al Parlamento per una veglia notturna di preghiera contro la legge che era incombente. Lui li rimandò a casa dicendo che non bisogna contrapporsi fisicamente, bisogna pregare, cose di questo genere. Contemporaneamente però, mentre ancora la legge era in discussione in Parlamento, uscì all'improvviso sul sito dell'Episcopato, del Vescovado di Buenos Aires, quindi col suo consenso ovviamente, una lettera privata che lui, Bergoglio, aveva scritto delle monache di clausura carmelitane, descrivendo in termini abbastanza apocalittici quello che stava succedendo sul terreno politico argentino e mettendo in campo il demonio a tutta forza, con espressioni molto barocche, dicendo che tutto era una manovra del principe della Benzogna che aveva ingannato i parlamentari, eccetera, eccetera. Beh, questa lettera naturalmente divenne un argomento di discussione formidabile, che per giorni e giorni fu praticamente l'unico argomento su cui si discuteva e ci si accapigliava. Però dando fortemente ai parlamentari favorevoli all'approvazione della legge un argomento di facile spendita, quello cioè di addirittura irridere le formule nelle quali si era espresso l'arcivescovo di Buenos Aires. Il risultato fu che effettivamente la legge passò in Parlamento per 3 voti di maggioranza soltanto, quando fino a pochi giorni prima i pronostici davano un'incertezza fortissima sull'esito, sulla riuscita di questa operazione. Quindi paradossalmente l'esito di questa, proprio di questa formula espressiva che usò l'allora arcivescovo di Buenos Aires, fu quasi, senza volerlo, di dare una mano a chi la sosteneva invece. Sì, sta di fatto che appunto probabilmente ha agevolato il passaggio della legge, che forse non sarebbe nemmeno passata senza questa fortissima accensione della polemica. Ecco, tornando all'Italia... Altra domanda, sempre sul Papa. Ma poi, ricordiamo a chi ci ascolta, i sinodi sulla famiglia, che insomma, per il Papa sono state un'eroica impresa rispetto ai problemi, no? E quindi, diciamo, la seconda sessione funestata poi da una vera e propria lotta anche all'interno, insomma, di opinioni diverse, come si capiva dai documenti che venivano mandati in giro dall'interno del sinodo, dai giornali e così via. È mai più tornato da allora Bergoglio su questo tema preciso individuato dal progetto di legge sulle unioni civili italiane? Non ha più parlato, perché Bergoglio effettivamente ha parlato in alcune occasioni nei mesi passati in termini polemici nei confronti dell'ideologia del gender, nei confronti del matrimonio omosessuale e nei confronti di altri temi connessi, generalmente colpendoli come se fossero un effetto di una colonizzazione di un pensiero unico occidentale che invade il mondo e lo fa a danno della genuina visione della famiglia fatta di un uomo e di una donna. Questo l'ha detto, però sempre in contesti molto slegati dal combattimento politico. Li ha detti sempre fuori contesto, tant'è vero che non sono praticamente stati mai in modo particolare raccolti dai media internazionali. E quando invece c'è un'occasione molto forte in cui uno si aspetterebbe una presa di posizione, lui generalmente non la fa. Ad esempio, quando ci fu il referendum in Irlanda, che è diventato un elemento, una notizia formidabile in tutto il mondo, il Papa è stato completamente silenzioso. Ha parlato soltanto il cardinale Parolin, effettivamente in termini molto, molto drastici, parlando di sconfitta dell'umanità. Però il Papa è stato completamente zitto quando in Slovenia, poche settimane fa, un referendum ha dato un risultato di segno opposto. Totalmente a favore della famiglia tradizionale, contro un'ipotesi di legalizzazione dei matrimoni omosessuali. Silenzio assoluto. Ecco, in Italia lui ha adottato questa regola, non ne parla quando la polemica politica è forte. Infatti non ne ha parlato in questi giorni e non lo so se parlerà nei prossimi giorni. Questa è un'incognita che probabilmente potrebbe anche dare spazio a delle sorprese, ma se si guarda gli antecedenti, io escluderei che parlerà. Ma però a questo punto, quale delle diverse anime dell'Episcopato possiamo immaginare, per quanto possa avere senso, ecco, immaginare sia più vicino alla sua? Ecco, l'anima si sta sfiorando in modo nettamente preponderante a livello di Episcopato italiano, non è quella di Galantino, molto più concessiva, se così si può dire. Sì. È quella sicuramente di un residivo ruino. Questo direi che è fuori dubbio, perché è vero che l'iniziativa della manifestazione che si terrà al Circo Massimo il 30 gennaio è stata presa totalmente di fuori di questo input da parte della Conferenza Episcopale, da parte di persone. Perché non c'è alcun appoggio ufficiale, diciamolo chi ci ascolta. No, ecco. L'appoggio ufficiale non c'è nemmeno adesso. Tantomeno c'era quando questa manifestazione è stata avviata. Però successivamente, dopo che è intervenuto Galantini in termini abbastanza distaccati, dicendo sì, certo, non è vietato che un vescovo ci vada, però non si mette in testa questo vescovo che ci va che debbono andarci tutti gli altri, ha detto letteralmente così. Sì, sì, sì. Ecco. Beh, dopo questa presa di posizione, le prese di posizione successive di un vescovo dopo l'altro e di un cardinale dopo l'altro sono state tutte di segno opposto. Ed è probabile che ci saranno anche fisicamente molte presenze. Quando ci sarà questa, quindi in realtà adesso lei mi corregga se sbaglio, poi abbiamo un minuto di pausa all'informazione stradale e andiamo a Scalfarotto. Sbaglio, perché io ammetto che di questo sono solo un osservatore molto attento, ma non ho le sue fonti nella sua intelligenza professionale in questo. Si sbaglia a credere che in questa pluralità di espressione sia una specie di coda lunga ancora del sinodo sulla famiglia e delle difficoltà che il Papa ha dovuto incontrare su questo? È infondata questa impressione? Io direi distinguerei le due cose. Sì, effettivamente riguardano questioni abbastanza diverse. Sì. Quindi probabilmente tra l'altro si è polarizzato pochissimo sulla questione degli omosessuali. Sì, è verissimo. Era su altro che la questione andava. Quindi, cari ascoltatori, da quello che si capisce, l'anima ruiniana, Bagnasco e così via, è ancora quella predominante. Vedremo. A me questi toni, devo dire, a volte non piacciono, ma sarà che sono un vecchio laicista, probabilmente superato. Un minuto di informazione stradale, sentiamo come la pensa poi Ivan Scalfarotto. La versione di Oscar. Tornati in diretta, 16:49 primi 40 secondi, abbiamo sentito Sandro Magister, vaticanista dell'Espresso, su queste diverse anime dell'Episcopato italiano contro il disegno di legge sulle unioni civili e il risvegliarsi energico, forse più di quello che si immagina, all'interno del PD di un'ala cattolica che dice no, questa roba va cambiata in punti di fondo, non solo sulla step child adoption. Scalfarotto, sorpreso e soprattutto come la pensa e cosa è prevedibile che avvenga a questo punto? No, ma io guardi Giannino, non sono per niente sorpreso perché sono nel Partito Democratico dalla sua fondazione, so che in un grande partito ci sono spesso opinioni diverse, lei ricorderà che cosa è successo diciamo, per esempio col Jobs Act, cosa è successo con la buona scuola, cosa è successo con la riforma elettorale. Noi siamo un partito nel quale per una differenza di opinione non si viene espulsi, diciamo così, al contrario di altri schieramenti politici, e sappiamo che in un partito così grande dove coabitano tante culture politiche diverse, e anzi il tratto distintivo di quel partito, è raro essere unanimi. E quindi come abbiamo affrontato il Jobs Act, abbiamo affrontato la riforma elettorale, la riforma della scuola, affronteremo come si direbbe, ogni riforma ha la sua croce quando si è multiculturali. Ma sì, sa cosa succede? Che quando l'agenda di un governo come il nostro è quello di modernizzare un paese, non si può pensare di modernizzarne soltanto l'infrastruttura, io dico spesso l'hardware. C'è un problema anche culturale. No, ha profondamente ragione. Lei fa, l'hardware va riformato e quindi si riformano fisco, giustizia, il mercato del lavoro, la scuola. Poi bisogna modernizzare anche il software. Il software sono le leggi che hanno a che fare con la vita delle persone, sì, le relazioni tra le persone. E noi non possiamo dimenticare che siamo in questo secolo, che l'Italia è l'unico paese, diciamo, dell'Occidente che non abbia una legge di questo tipo. Non possiamo dimenticare che questa legge non toglie nulla alla famiglia tradizionale. Quando lei prima diceva si terrà una manifestazione a difesa della famiglia tradizionale, e qui non c'è nulla da difendere perché nessuno è sotto attacco. Però Scalfarotto, le faccio l'obiezione giornalistica ovvia e secondo me giusta, e l'abbiamo letto su tutti i giornali e ha un fondamento perché non è stato smentito, che lo stesso capo dello Stato Mattarella ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione su tutti coloro che hanno in mano il provvedimento sul fatto che i pareri chiesti dal Quirinale, evidentemente autorevoli e considerati tali dal Presidente della Repubblica, dicono che l'impianto della legge relativa ai diritti è troppo analogo a quello della famiglia. E su questo punto, anch'io quando ho letto Mattarella ho detto, qui c'è un problema serio. In realtà il Quirinale, neanche Repubblica, che ha rilanciato questa notizia, ne ha mai più riparlato. Sì. Il Quirinale giustamente si atterrà a quelle che sono le sentenze della Corte Costituzionale, ce n'è una del 2010 e una del 2014, ma quella del 2010 dice una cosa importante di cui si parla poco, e dice cioè che bisogna assicurare omogeneità di trattamento, dice la Corte, tra coppie sposate e coppie omosessuali. E dice la Corte, attenzione, che se farete differenze tra nel trattamento, sarò io a verificarle col controllo di ragionevolezza. Poi la Corte dice, guardate, non saremo noi, poiché questa sentenza era nata su richiesta di alcune coppie che volevano, diciamo così, ottenere il riconoscimento del matrimonio. Del matrimonio. La Corte disse, non posso allargare io diciamo il matrimonio per sentenza alle coppie omosessuali, anche perché il Costituente, quando scrisse la Costituzione, non pensava alle coppie omosessuali. E poi dice la Corte, attenzione, i vari paesi che hanno affrontato questo problema l'hanno affrontato con soluzioni differenti, quindi rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quale strumento utilizzare. E quindi che cosa fa il disegno di legge Cirinnà? Si attiene a quello che dice la Corte, da un lato una differenza di istituto, dall'altro omogeneità di trattamento. Io credo che questa legge sia assolutamente in linea con la sentenza, e credo che il Quirinale non avrà alcunché da dire. Ne sono piuttosto, diciamo, sono piuttosto tranquillo da questo punto di vista. No, ma credo anch'io che certo non negherebbe la promulgazione, ma detto questo, però, un altro conto è tentare di influenzarla. Ma lei non è stato sorpreso neanche dal fatto che nei precedenti passaggi in commissione e così via, in realtà questa durezza delle obiezioni dei PD cattolici, beh, insomma, non si era vista in questi termini? Guardi, il mondo cattolico in tutti i paesi dove ci sono state queste leggi è sceso in piazza. È sceso in piazza in Francia, è sceso in piazza in Spagna 10 anni fa, ma in realtà, cosa che io credo anche Papa Bergoglio da argentino possa osservare, in nessun paese dove si è introdotto addirittura il matrimonio, perché poi non dimentichiamo che parlando di introduzione del matrimonio, la società non è collassata, la famiglia tradizionale non è sparita, diciamo in Spagna continuano a vivere in modo molto sereno come fanno in Francia. E quindi lei non è sorpreso neanche dai toni di nuovo usati da il ruggente Ruini? Guardi, io penso questo. Dopo 15 giorni dall'approvazione della legge, una legge che il paese ha già abbondantemente metabolizzato, non ce ne ricorderemo più. Continueremo a vivere in una società dove le coppie omosessuali esistono, ciascuno di noi ne ha contezza, vivono tra di noi con i loro bambini, peraltro che frequentano le nostre scuole senza nessun pubblico scandalo, e quindi una volta che avremo superato e fatto questa legge ci saremo dotati finalmente anche sanando una violazione della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo. Lei sa che noi siamo stati condannati, cosa che non è certamente un vanto per un grande paese, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ma infatti, però, a onor del vero, penso ai parlamentari del PD che obiettano, non sono contrari alla legge in quanto tale, al riconoscimento dei diritti, eccetera. Chiedono una differenza più radicale, ecco, rispetto a quella del matrimonio. Guardi, so di parlare con un liberale. Sì. Allora, il matrimonio omosessuale, il matrimonio ugualitario, è stato introdotto da governi di sinistra e da governi di destra. Sì, verissimo. La nostra legge, David Cameron disse, io non sono per il matrimonio gay nonostante il fatto che io sia conservatore, sono per il matrimonio perché sono conservatore, quindi i conservatori vogliono che le persone si sposino. Brillante battuta, devo ammettere che mi sembrò molto efficace, però questa è la mia opinione. Allora che cosa succede? Che io credo, appunto, semplicemente noi stiamo utilizzando e assumendo una posizione come partito, che è la posizione di tutti i partiti socialisti europei. Ma se diventerà necessario il voto di altri piuttosto che non sono in maggioranza, amen, perché questo è un provvedimento che non interessa il governo, gli equilibri. Guarda, divorzio, eccetera, no? E aborto sono stati approvati con la Democrazia Cristiana regnante. Ricordiamolo, ma ricordiamolo, perché questo anch'io, i fatti dicono questo, questa non è materia di governo, perché naturalmente poi scoppieranno le polemiche se così dovesse essere. L'ultima domanda la faccio. Posso dirle tanto una cosa brevissima. Attenzione che questa legge non è una legge per gli omosessuali, legge che segna un passaggio. Fa bene a ricordarlo, certo. Come accade col divorzio. Guardi, il divorzio non servì soltanto a far separare 20.000 o 30.000 coppie all'anno, il divorzio aiutò a sancire il passaggio dall'Italia, diciamo, patriarcale e contadina del dopoguerra. Ed è anche però il vero motivo per cui noi facciamo eccezione rispetto a tanti paesi. Risposta secca a Sandro Magister ancora. Lei si aspetta comunque che il Papa si attenga alla linea che ci ha detto? Ho capito male? Non sorpresa, vero? Io prevedo più probabilità per un silenzio del Papa. Ecco, cioè niente lettere barocche anche per l'Italia, insomma. Niente lettere, in questo genere. Va bene, vediamo se il demonio verrà evocato anche questa volta. Comunque, grazie a Sandro Magister, grazie a Ivan Scalfarotto, e continuate con la 24, appuntamento all'8:15 domani mattina con Alessandro Mina, attenti a noi due.